Sì, due parole su costellazioni e psicoteatro. Intanto per cominciare, le costellazioni hanno già in sé questo elemento di psicoteatro. Questo è proprio uno dei motivi per cui affascinano tanta gente. Le costellazioni, quando tu vedi una costellazione è una rappresentazione. È una rappresentazione di vita che coinvolge una serie di persone. Durante la costellazione nessuno sa come si svolgerà, che cosa succederà, come andrà a finire, neanche il costellatore lo sa. E le persone, sia dentro alla costellazione, sia che assistono, sono tutte prese dal fascino di quello che sta succedendo. Questo è già un elemento di rappresentazione che ci porta proprio all'idea dello psicoteatro. Allora, perché oggi noi proponiamo di aggiungere all'elemento classico di costellazioni familiari anche un elemento in più di psicoteatro? Beh, i motivi sono tanti. Beh, intanto uno è che nelle costellazioni facilmente ci si avvicina a un aspetto teatrale che molte volte è il dramma. Ora, noi sappiamo che la vita può essere presa in modo drammatico, ma può anche essere presa in modo con spirito. Qualsiasi situazione, abbiamo tanti maestri che ci insegnano questo, dalla storia dei tre monaci che ridono, ma anche al modello terapeutico della terapia provocativa, Yoga della la risata, yoga della risata. sì. Ecco, tanti saggi ci hanno insegnato che la vita, anche nei momenti più drammatici, può essere vista in modo più leggero. E ci hanno insegnato che se noi la vediamo in modo più leggero, questo ci fa bene. Fa bene a noi, ci fa bene alla salute, fa bene a chi c'è intorno. Alleggerisce la vita Toglie stessa, peso, toglie toglie peso, sì. peso. Eh beh, sì, certo. Cioè, le tre energie archetipiche fondamentali sono forza, gentilezza e humor, guarda caso. Ecco, effettivamente, come dici te, nelle costellazioni è molto raro sentire un'esperienza, una presenza degli humor. Di solito si genera una situazione, a volte anche sì, di sospensione, ma appunto, come dici te, di dramma. Il dramma, beh, invece la vita è fatta di tutti gli elementi. Esatto. Ecco, forse questa è una delle cose che a noi ha mancato nelle costellazioni, l'aspetto dell'humor, del gioco, ludico. Se ci pensiamo, Bene. beh, se ci pensiamo bene, la forza maschile, la gentilezza, il femminile, l'humor, cos'è il bambino? Il bambino è la parte di noi che è quella più fresca, è il fiore spontaneo che c'è dentro di noi, quindi in un certo senso, che dentro le costellazioni possa emergere anche l'aspetto bambino, dal nostro punto di vista completa la cosa. Completa, sì. Beh, un altro motivo qual è? È che l'arte in sé cura. Per esempio, ho ripreso stasera in mano il meraviglioso libro di Terzani, un altro giro di giostra che è un pozzo di informazioni, di esperienze raccontate, emozioni. E lui, per esempio, quando era a New York, alle prese con questa macchina che lui chiama la ragna, dice che quando poi si avvicinava a un film, un'opera teatrale, qualcosa di grande, lui stava bene perché sentiva meno dolore, perché la sua vita si espandeva. Ecco, e poi sappiamo che gli antichi greci, per esempio, curavano attraverso le opere d'arte. Eh sì, ad esempio, non bisogna pensare che le tragedie greche, ad esempio, sono rappresentazioni teatrali messe in scena semplicemente per commuovere o far partecipare la gente al dolore delle vicende umane. No, no, al contrario. Quando nella città sorgeva un problema, venivano rappresentati questi problemi nel teatro, ovvero all'interno appunto di una dimensione sacra. Ecco, questo si vede nella costellazione quando si parla di campo di coscienza. In effetti, lo stato di coscienza che si genera lì dentro ha molto a che fare con l'aspetto sacro, cioè dell'oltre l'ordinario, dell'oltre il fenomeno, qui rinvia una dimensione ulteriore. Ebbene, in greco, teatro ha a che fare col sacro, perché tutte le parole greche che cominciano per te, come Theos, Theos vuol dire Dio, Zeus, Teorema, Teatron, contengono riferimento al sacro. E quindi questo è un altro elemento molto importante. Bene.